Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. E sarà John Scofield protagonista in apertura del soundcheck di questa sera qui su Radio 24. Buonasera a tutti voi dal Groovemaster Studio da Gegè Telesforo. Sì, John Scofield torna a stupirci con un album molto ben realizzato, molto bello, molto ben suonato. Tra l'altro segna il suo debutto per la prestigiosa casa discografica Impulse dopo tanti anni con la Blue Note. John Scofield riunisce in studio per questo album intitolato Past Present i suoi vecchi compagni di avventure musicali e di merende, ovvero il sassofonista Joe Lovano, con il quale frequentò la Berklee College of Music lì a Boston, il batterista Bill Stewart e naturalmente non poteva ritrovare Charlie Haden, che purtroppo è scomparso, ma per chiudere l'organico ha chiamato un altro prestigioso, favoloso contrabbassista che noi abbiamo conosciuto con il trio di Brad Mehldau, ovvero il bravissimo Larry Grenadier. John Scofield, musicista che ha iniziato la sua carriera nel 1969 proponendo rhythm blues e soul music, approdò poi al jazz rock partecipando alle tournée e alle registrazioni discografiche di George Duke e Billy Cobham, che lo hanno svezzato insieme al bassista Alfonso Johnson, finché poi un giorno arriva a New York e lì capisce che per frequentare un certo ambiente deve dedicarsi di più al jazz, lo deve studiare, e quindi incontra Dave Liebman con il suo sax soprano, Steve Swallow al contrabbasso, e parte la carriera e la leggenda, lasciatemelo dire, di John Scofield, ancora oggi uno dei musicisti più interessanti dell'attuale scena discografica jazz e non solo. Sì, perché comunque un appassionato di funk, di rhythm blues, ce lo ha fatto capire più volte anche incontrando il trio Medeski Martin e Hood, ma è tornato al vecchio amore per il jazz. John Scofield, lo ripeto, con questo album intitolato Past Present, assolutamente da non perdere. Il brano bellissimo si intitola Get Proud. John Scofield Quartet al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Presenti di nuovo dopo l'informazione di Radio 24 qui per il soundcheck, e questa è la voce di Curtis Stigers, musicista, cantante non molto conosciuto da noi. Sì, musicista, qui lo abbiamo apprezzato come vocalist, ma musicista perché nasce come chitarrista, sassofonista, poi si sposta a New York e per sopravvivere lì alla fine degli anni 80 capisce che deve andare a cantare gli standard in giro per jazz club. Fatto sta che Curtis Stigers ha ottenuto anche un bel successo scrivendo composizioni originali e partecipando anche a concerti, a registrazioni discografiche importanti anche con artisti del calibro di Elton John, Eric Clapton, Prince, Bonnie Raitt, Rod Stewart. Ma Curtis Stigers ha lo swing nel sangue e quindi torna discograficamente con un album jazz che porta poi il titolo di questa composizione, ovvero Hurrah for Love. E qui al soundcheck siamo pronti anche per presentarvi la nuova fatica discografica di un pianista italiano molto apprezzato all'estero, il bravissimo Antonio Faraò, album nuovo Boundaries, con il quale Antonio Faraò presenta un nuovo quartetto, ovvero tutti i musicisti che conosce benissimo, un quartetto tutto italiano dopo varie esperienze internazionali, e quindi con lui in studio di registrazione per questo album che viene proposto dalla Verve italiana. Troviamo Mauro Negri, bravissimo al sax tenore, il contrabbassista macedone Martin Giaconoschi, che lavora con Antonio Faraò da oltre 15 anni, e il bravissimo Mauro Beggio alla batteria. Bene, Antonio Faraò ci sorprende ancora una volta con un album molto potente, ma da questo album potentissimo io invece vi vorrei proporre anche un atteggiamento musicale molto romantico di Antonio Faraò, che scrive questa bellissima canzone My Sweetest, tanto per dimostrare a tutti che Faraò ha un grandissimo cuore, una grandissima sensibilità ed è diventato col tempo musicista maturo e anche uno dei più apprezzati musicisti italiani al mondo, tant'è vero che Herbie Hancock lo ha voluto con sé durante il main concert a Parigi nella ultima edizione dell'International Jazz Day nell'aprile scorso. Eccolo qui Antonio Faraò, il brano My Sweetest, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Ne abbiamo già parlato, ma questa è una vocalist che va tenuta sotto controllo. Si chiama Sarah Elizabeth Charles, sta spopolando nell'ambiente contemporaneo newyorkese, anche perché è una bravissima autrice. Questa è una sua composizione intitolata Bells, con la partecipazione del suo mentore, ovvero il trombettista Christian Scott. Appassionata di cinematografia, Sarah Elizabeth Charles realizza personalmente anche i videoclip con i quali propone poi su YouTube le sue composizioni, e potete notare anche la sua bravura. E da Sarah Elizabeth Charles, per chiudere questo appuntamento del Soundcheck, direi di passare a un veterano del jazz italiano come il trombettista Enrico Rava, che salutiamo e che invitiamo per l'ennesima volta. Quindi se sei in ascolto, mio caro Enrico, fatti vivo, vieni a trovarci al Soundcheck perché ti dedichiamo tutta una puntata. Ebbene, Enrico Rava ancora una volta per la premiata casa discografica tedesca ECM propone un album nuovo dal titolo Wild Dance, nel quale incontra uno dei suoi musicisti preferiti ormai da diversi anni a questa parte, il trombonista Gianluca Petrella. Quindi due generazioni a confronto, sostenuti da una bella ritmica come Gabriele Evangelista al contrabbasso, il bravissimo Enrico Morello, giovane batterista romano, e la chitarra di Francesco Diodati. Album molto interessante, sonorità tipiche per la ECM. Il brano che ho scelto per presentarvi, Wild Dance, si intitola F Express. Enrico Rava chiude il Soundcheck e non mi resta che salutarvi, augurarvi buona serata, buona settimana e buona musica da Giorgio Telesforo. Ci risentiamo sabato prossimo alle 19:15, sempre soltanto qui su Radio 24.